Papa Gregorio Magno diede queste indicazioni ai missionari in procinto di partire per l'Inghilterra. Non bisogna in alcun modo distruggere i templi degli idoli di questo popolo, ma solo le loro effigi, contenute in quei santuari. Poi va preparata acqua santa con cui cospargere quei templi, vanno edificati degli altari e vanno portate lì delle reliquie. E più oltre, se quel popolo non vedrà i propri templi distrutti, finirà forse per respingere spontaneamente il proprio errore, per riconoscere il vero Dio e adorarlo. Ed ecco l'astuzia cattolica. Poiché sono così abituati a sacrificare ai demoni tanti buoi, bisognerà predisporre per loro un'altra festa. Da che cosa è dipeso il successo della missione cristiana presso tante culture e in tante lingue? Da un approccio positivo? Da certi miracoli? O anche, e forse in particolare, da intelligenti indicazioni come quelle proposte da Gregorio Magno, quale metodo di evangelizzazione? È un grosso interrogativo perché la missione ha avuto successo e perché ha rapidamente conquistato al cristianesimo l'intero impero? Cercando di rispondere a questo interrogativo, dobbiamo però ridimensionare gli ordini di grandezza sottintesi da questa domanda. Ancora all'epoca di Costantino, i cristiani costituivano solo una piccola percentuale della popolazione dell'impero, per quanto l'imperatore riconoscesse loro una funzione decisiva anche in prospettiva. Che cosa ha determinato questo successo? Il paganesimo si era logorato e aveva perso di credibilità. Era ancora capace di veicolare coesione politica, ma nessuno prestava più fede alla mitologia pagana. Raccoglieva ancora un certo consenso in campagna, dove, grazie alle processioni e ad altri riti, era diventata parte della quotidianità, ma altrove questi miti si erano fatti ridicoli. Servivano a stabilizzare l'impero, ma se non erano più credibili, non potevano nemmeno più svolgere la loro funzione di stabilizzazione politica. Nell'impero tardo romano sorgevano dunque interrogativi su Dio, sull'uomo, sulle loro relazioni. A quell'epoca c'erano movimenti filosofici che parlavano di un Dio unico, che però rimaneva un Dio frutto di elaborazioni teoretiche, cui non ci si poteva rivolgere con la preghiera. In questo contesto emerge improvvisamente un movimento che pure annuncia un Dio unico, ma da una prospettiva eminentemente religiosa. Dobbiamo aggiungere ancora che già nella tarda antichità, nel contesto della ricerca di una fede razionale, quella ebraica, aveva dispiegato una forte capacità di attrazione. In quanto religione monoteista, per molti era la religione per eccellenza, compatibile con la sapienza greca, mentre il suo annuncio di un Dio unico poteva attecchire anche tra i filosofi e le persone illuminate. Attorno alle sinagoghe, in ogni parte dell'impero si erano quindi raccolte schiere di simpatizzanti, i cosiddetti timorati di Dio, che certo non potevano farsi ebrei, ma che si conformavano per quanto possibile ai precetti dell'ebraismo. In questa cerchia si è diffuso inizialmente il cristianesimo e mentre i simpatizzanti dell'ebraismo costituivano pur sempre una sorta di cerchio concentrico esterno, attorno alla comunità ebraica vera e propria, chi si convertiva a questo Dio cristiano gli apparteneva invece senza riserve. Un Dio che aveva mostrato il suo volto e che tramite Cristo si era avvicinato agli uomini. In questo modo, il postulato di una religione purificata e razionalmente accessibile si sposava con la forza religiosa di una fede che non era il frutto di speculazioni umane, ma di un dono di Dio, dell'esperienza travolgente dell'incontro con Lui.